giornale radio del Friuli Venezia Giulia. MSC dopo Varsile, i sindacati accolgono con favore l'investimento annunciato su Trieste ma chiedono i dettagli su tempi di rioccupazione dei 300 lavoratori e salari, approfondimenti il 27 marzo al tavolo ministeriale a Roma. La chiusura dei centri islamici di Monfalcone, il Consiglio di Stato conferma il divieto alla preghiera collettiva nei locali ma obbliga l'amministrazione comunale a trovare siti alternativi accessibili e dignitosi e impone un confronto entro 7 giorni. Liliana Resinovic era rimasta incinta negli anni 90, probabilmente dell'amico Claudio Sterpin, che verosimilmente ne rimase all'oscuro, e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire. È emerso da un'intercettazione ambientale. Secondo la consulente della famiglia Resinovic, Visintin non poteva non sospettare di una frequentazione della moglie con Sterpin. Fiamme nella notte in un asilo di Sequalse, danni ingenti, 40 bambini senza sede, le cause del rogo al vaglio dei vigili del fuoco. Le imprese promuovono l'intelligenza artificiale, a Pordenone il 60% già la utilizza, il sondaggio di Confindustria tra gli associati. Nel pomeriggio il Consiglio regionale approverà la riforma della legge elettorale per i comuni. Dalle interrogazioni in aula i tempi sul ripristino della strada di Passo Monte Croce Carnico, che potrà riaprire solo a fine anno. In arrivo altri 40 milioni per incentivare i privati a installare impianti fotovoltaici. È la giornata del ricordo delle vittime innocenti delle mafie. A Trieste la commemorazione dell'osservatorio regionale antimafia. Nel pomeriggio e in serata appuntamenti a Trieste, nell'Isontino e nel Pordenonese. Al via gli appuntamenti per la rigenerazione urbana a Pordenone. Oggi a parlare sarà l'architetto Roberto Malvezzi, che spiega perché l'urbanistica deve pensare a connettere chi abita le città. Buon pomeriggio da Dario Ronzoni e Andrea Covri in studio per questa edizione del giornale radio regionale. L'apertura di un'alternativa valida per il dopo Varsila viene accolta con favore dai rappresentanti dei 300 lavoratori ancora impiegati nello stabilimento di Bagnoli della Rosandra a Trieste, ma ora i sindacati chiedono di conoscere i dettagli del piano industriale. Soddisfatti a metà i sindacati, perché l'impegno di MSC è concreto, eppure quello di riassumere i 300 lavoratori, ma salari e tempi di rioccupazione sono gli aspetti da chiarire nel piano industriale, piano che al momento hanno potuto visionare soltanto le parti istituzionali, governo e regione. Alessandro Gavagnin, CISL, Trieste. Finalmente ci sono stati illustrati dei numeri, numeri che possiamo commentare con un cauto ottimismo, anche perché adesso manca la parte più importante, cioè la parte di discutere la parte salariale e i tempi, perché i 36 mesi che ci sono stati illustrati come massimo per entrare al pieno regime sono ancora troppi, perché non dimentichiamo che la gente ormai è a casa da troppo tempo, ormai da più di un anno. Quindi quello che noi ora dobbiamo verificare nell'appuntamento del 27 è avere un piano industriale concreto, quindi con maggiori dettagli. Il prossimo incontro del 27 marzo al Mimit dovrebbe sciogliere i dubbi su un'avvertenza che ha visto ora il disimpegno di Ansaldo Energia. MSC intende produrre in quello che sarà l'ex stabilimento Varsila 1000 carri ferroviari ad alto livello tecnologico per il trasporto delle merci all'anno. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio di Stato conferma l'ordinanza di primo grado vietando l'utilizzo del centro islamico Darussalam come luogo di culto per la comunità musulmana di Monfalcone, ma impone all'amministrazione comunale, che aveva emesso l'ordinanza impugnata davanti alla giustizia amministrativa, di individuare in contraddittorio con gli interessati e spirito di reciproca e leale collaborazione siti accessibili e dignitosi per consentire ai credenti la preghiera. I giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato impongono anche un limite di 7 giorni per la convocazione del tavolo di confronto e impongono la fissazione in tempi celeri della discussione nel merito. Liliana Resinovic rimase incinta negli anni 90, probabilmente del suo amico Claudio Sterpin, e il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire. È quanto emerge da un'intercettazione ambientale contenuta negli atti dell'inchiesta sulla scomparsa e la morte della donna triestina tra dicembre 2021 e gennaio 2022, in cui lo stesso Visintin parla con una persona e racconta questo episodio avvenuto nel 1990 o 1991, quando lui e Liliana erano già insieme. Questo elemento, secondo la consulente della famiglia Resinovic, Gabriella Marano, fa capire che Sebastiano non poteva non sospettare di una frequentazione di Lilli con Claudio. Nell'intercettazione relativa a un colloquio del 5 marzo 2022, la persona chiede perché i coniugi non avessero avuto figli e Sebastiano Visintin racconta l'episodio che Liliana era rimasta incinta, non di lui ma verosimilmente di Claudio Sterpin, e che molto probabilmente lo stesso Sterpin non era a conoscenza del fatto. Liliana avrebbe confessato a Visintin, che era già suo compagno, di essere incinta e quest'ultimo l'avrebbe accompagnata in ospedale per abortire, come testimonierebbe la documentazione sanitaria contenuta negli atti. Un incendio ha danneggiato gravemente un asilo di Sequalse, nessuno è ferito, ma una quarantina di bambini ora non può più contare sulla struttura da stabilire l'origine delle fiamme che si sono sviluppate da un vano tecnico. Le fiamme sono divampate poco dopo le 4 di questa notte alla scuola dell'infanzia, monumento ai caduti di Lestance, frazione di Sequals, propagate da un vano tecnico dove erano stoccati alcuni materiali per le pulizie e al cui interno c'era anche una lavatrice. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo, tra le ipotesi un cortocircuito dell'elettrodomestico. Il fuoco ha creato ingenti danni, l'edificio è inagibile e resterà inutilizzabile per alcuni mesi. A dare l'allarme vicino, che nella notte si è accorto dell'incendio e ha subito chiamato i soccorsi. I pompieri hanno spento le fiamme prima dell'alba. Ho visto tutto illuminato lì e ho preso paura. E allora ho avvisato i pompieri e abbiamo cercato di fare del nostro meglio, perché quando ho visto le fiamme così era una cosa pericolosa. L'asilo, una struttura recente, accoglie una quarantina di bambini e bambine. Il comune si è subito attivato per ricollocarli. Il sindaco di Sequalse, Enrico Odorico. Abbiamo diverse possibilità di farli vivere qui in un locale che abbiamo, ma che è tutto da sistemare, oppure passeremo magari a un altro asilo in un piccolo paesino con termine, no, che forse ci ospiterà. Inagibile pure la mensa interna, che serviva anche un centinaio di bambini della vicina scuola primaria. Ancora Odorico. Per questi bambini stiamo già trasferendo la mensa in un locale comunale attiguo, diciamo qui, e quindi già da praticamente da domani sera sarà attiva anche quella mensa. Per oggi quei bambini mangeranno, diciamo, con il loro sacchettino. Sequals, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Torniamo all'economia. Sì all'intelligenza artificiale, un campo sul quale gli industriali pordenonesi intendono investire, quanto emerge da un sondaggio condotto tra i propri associati da Confindustria Alto Adriatico. Sorprende quanto l'intelligenza artificiale sia già diffusa nelle imprese tra le oltre 200 manifatturiere che hanno risposto alle domande del sondaggio promosso da Confindustria Alto Adriatico e dal suo centro di formazione LEF, che da anni affianca le imprese italiane nella transizione digitale. Ben il 74% dichiara di possederne una buona conoscenza, il 60% che la sta già utilizzando, il 10% intensivamente. Stupisce anche che stia penetrando nelle aziende molto più velocemente rispetto ai temi della sostenibilità, rileva il direttore generale di LEF Marco Olivotto, che richiama anche il dato importante sugli imprenditori che intendono continuare a investirci nel prossimo quinquennio, il 70% degli intervistati, perché consapevoli che l'intelligenza artificiale impatterà inevitabilmente nel loro settore in modo rivoluzionario e significativo e dunque vogliono governarla per non subirla. L'ottimismo delle aziende verso l'intelligenza artificiale, unito alla volontà di investire e superare le sfide di integrazione e sicurezza dei dati e formazione, riflette una visione condivisa della nuova tecnologia come motore di innovazione e crescita, aggiunge Olivotto, che sottolinea anche il significativo ottimismo espresso dal 61% degli imprenditori sui benefici che potrà portare alla società, ritenuti superiori alle ricadute positive che il 58% degli intervistati si attende potrà avere sul proprio business. Lo studio conferma un panorama in movimento e un interesse crescente fra le imprese, rimarca il presidente di Confindustria Alto Adriatico e LEF Michelangelo Agrusti. L'attenzione adesso si concentra sul 25% di imprese che affermano di avere problemi tecnici oltre che di competenze e conoscenze e che si conta di supportare con delle academy e workshop dedicati dentro alle fabbriche. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. La politica, dopo l'animato dibattito di ieri, oggi pomeriggio in Consiglio regionale arriverà l'approvazione della riforma elettorale per i comuni. In mattinata diverse interrogazioni affrontate dagli assessori competenti, tra cui quella che riguarda gli interventi per il ripristino della strada di Passo Monte Croce Carnico. La riapertura è prevista per fine anno. La votazione della riforma della legge elettorale per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia attende la fine della seduta mattutina del Consiglio regionale o la prima parte della seduta pomeridiana. In mattinata Consiglio e parte della Giunta impegnati nelle interrogazioni a risposta immediata e fra esse due sull'interruzione della strada di Passo Montecroce Carnico. Rispondendo ad una domanda della consigliera Serena Pellegrino, Verdi Sinistra, l'assessora alle infrastrutture Amirante ha affermato che sarà rispettato il cronoprogramma annunciato per il ripristino della viabilità. Ad aprile l'avvio del cantiere per demolire i punti franosi e pericolanti, mettere in sicurezza la zona, sistemare barriere paramassi di nuovo tipo. La fine dei lavori è prevista per dicembre. Questi interventi su una viabilità molto fragile sono indispensabili anche al fine di poter avviare in sicurezza cantieri per soluzioni alternative e definitive, qualunque esse saranno. L'assessore alle attività produttive Bini ha assicurato, rispondendo a Mentil del PD, che saranno cercati strumenti per aiutare le imprese danneggiate dall'attuale chiusura del passo. Fotovoltaico, sempre Amirante, rispondendo a Carli del PD, ha affermato che mentre i 20 milioni di incentivi residui saranno sufficienti a rispondere alle quasi 4.000 domande pendenti, altri 40 milioni saranno messi a disposizione, mentre con la manovra estiva di bilancio si valuteranno eventuali nuovi interventi. Dal Consiglio regionale, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. È stato presentato oggi e approvato all'unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali il disegno di legge sulle disposizioni multisettoriali e semplificazioni. Il disegno, illustrato dagli assessori regionali al patrimonio e servizi generali Callari e alle autonomie locali Roberti, contiene una serie di provvedimenti per semplificare, come ha spiegato Callari, le stratificazioni normative che rendono molto complicata l'attività amministrativa. Il DDL comprende disposizioni per il contributo straordinario ai comuni costieri per abbattere i costi di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale spiaggiato, ma anche norme per la modalità di realizzazione degli impianti fotovoltaici da parte delle imprese agricole, tema che ha suscitato un dibattito, in particolare relativo all'impatto sull'ambiente e sul paesaggio provocato da queste installazioni. Ma si occupa anche di classificazione acustica, delle funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Una norma, ha evidenziato Roberti, riguarda gli statuti degli enti locali che saranno pubblicati sul sito della Regione nella versione coordinata, omettendo di pubblicare singole modifiche, mentre un'altra precisa i termini di pubblicazione dei regolamenti comunali e delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative alla nuova imposta ILIA. Un'ulteriore disposizione specifica che la figura del direttore generale può essere prevista nei comuni ex capoluogo di provincia. Finora era prevista solo nei comuni con più di 100.000 abitanti. Infine, per agevolare il coinvolgimento delle scuole nelle manifestazioni, la festa della polizia locale viene individuata il 3 maggio. Torniamo alla cronaca. Un uomo di 73 anni di Malborghetto Valbruna, Marcello Pettano, è morto ieri a Tarvisio dopo essere caduto per cause in corso di accertamento in un canale che scorre lungo via Torrente. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il medico legale ha accertato che la morte è avvenuta per cause naturali, forse per annegamento. In corso comunque indagini da parte dell'autorità giudiziaria. Oggi ricorre la giornata per il ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Per l'occasione, l'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia ha organizzato un incontro a Trieste. L'inizio della primavera coincide anche con il giorno del ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un'occasione nata su impulso di Libera, la rete fondata da Don Luigi Ciotti e che anche in Friuli Venezia Giulia ha sempre un significato importante. Due infatti sono le vittime legate alla regione, il mugesano Walter Eddi Cosina ed Emanuela Loi, che frequentò la scuola Allievi Agenti a Trieste. Entrambi parte della scorta di Paolo Borsellino e uccisi assieme al magistrato nell'attentato del 19 luglio 1992. È dal loro ricordo che è partito l'evento organizzato nella sala tessitori della regione dall'Osservatorio regionale antimafia. Enrico Sbriglia, presidente Osservatorio regionale antimafia. È importante perché soprattutto in questo territorio che rispetto ad altre realtà si presenta forte, si presenta formato da una comunità che ha il senso del dovere dello Stato, ecco, riuscire ancora di più a rafforzare questi valori. Le organizzazioni attecchiscono là dove c'è anche un vuoto di cittadinanza, dove ci sono vuoti di civismo. Ricordare le vittime delle mafie, e in particolare gli agenti morti a Palermo, fa bene al cuore, oggi che da molte parti la giustizia è vista con disistima, ha detto invece il procuratore distrettuale antimafia di Trieste, Antonio De Niccolo. Oggi, ha ricordato, le mafie non uccidono più in maniera spettacolare e hanno sempre più bisogno non di fucili e pistole, ma di analisti ed esperti di finanza. Questo chiama in causa ciascuno di noi, perché prima dei magistrati ad accorgersi delle illegalità e a denunciarle, rivolgendosi con fiducia alla giustizia, dovrebbe essere la società civile. Tutti dobbiamo tenere alta l'attenzione sull'attività delle mafie, ha concluso De Niccolo, lo dobbiamo alla memoria di Eddie ed Emanuela. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. E al Teatro Miele a Trieste la rassegna Pequo di itinerari di letteratura e giornalismo propone oggi un incontro col direttore dell'Espresso Enrico Bellavia, che dialogherà con Enzo D'Antona, giornalista e presidente di Bonaventura Teatro Miele, per parlare del rapporto tra mafia e chiesa. L'inizio alle 18, mentre alle 19, sempre al Miele, si terrà lo spettacolo Uparrinu, la mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia, di e con Cristian Di Domenico. A Gradisca di Sonzo la sezione goriziana di Libera organizza la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. L'appuntamento è per le 17.30 in Piazza Unità d'Italia. A Caneva, il Gas Caneva organizza un incontro pubblico con la giornalista Luana De Francisco, esperta di mafie e criminalità organizzata. Si parlerà degli incroci tra malavita e imprenditoria, con uno sguardo particolare al nord-est e ai traffici di armi, droga ed esseri umani. Alle 20.45 a Villa Frova Stevena di Caneva. Ancora cronaca, guidava senza patente e senza assicurazione e sfrecciava ad alta velocità su un'automobile lungo le strade del rione di Ponziana a Trieste. La polizia locale ha fermato in via Lorenzetti un uomo risultato recidivo con la patente revocata dal 2018 e alla guida di un veicolo senza assicurazione. Il mezzo è stato sequestrato e verrà confiscato. Per le violazioni a carico del conducente è prevista una sanzione di quasi 2.000 euro, alla quale si aggiunge per la seconda volta in 10 giorni quella di oltre 5.000 euro per guida senza patente. Un furgone che trasportava più di 60 kg di ricci di mare, circa 1.200 esemplari privi di documentazione sulla tracciabilità del prodotto, è stato scoperto e fermato dalla Guardia Costiera di Trieste. A carico di chi era alla guida è stata combinata una sanzione di 1.500 euro, mentre i ricci ancora vivi sono stati sequestrati e gettati nuovamente in mare. Cambiamo argomento. L'ambasciata d'Italia a Praga presenta oggi il Big Science Business Forum 2024, che si terrà a Trieste dal 1 al 4 ottobre 2024 e sarà incentrato sulle opportunità di collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell'industria. A presentarlo l'assessore regionale lavoro e ricerca Alessia Rosolene, il direttore del forum Paolo Acunzio. Il roadshow di presentazione del forum, che ha già toccato Belgrado e Bratislava, è promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per incoraggiare la partecipazione di aziende e operatori dell'Europa centrale, orientale e sudorientale. A parità di impegno, capacità e risultati, gli uomini hanno spesso uno stipendio più alto rispetto a quello delle donne. In Friuli Venezia Giulia si stima in media oltre 9.000 euro l'anno in meno. Un problema storico che non riguarda solo il nostro paese e soprattutto coinvolge davvero tutte le professioni, soprattutto le più ambite e prestigiose. Acclamate da pubblico e stampa, campionesse di incassi, eppure persino le dive di Hollywood prendono uno stipendio più basso dei colleghi maschi. Il gender payback, cioè il divario salariale tra uomini e donne, riguarda proprio tutte le professioni. Del resto, più prestigioso è il lavoro, la posizione, più il divario sarà alto, a dirlo Chiara Cristini, ricercatrice dell'IRES, ospite a Buongiorno Regione, che aggiunge: la differenza si vede fin dalle prime buste paga. Dai dati INPS del 2022 sul settore privato emerge che, per esempio, i maschi in età tra i 25 e 29 anni percepiscono diciamo 20.000 euro, mentre le ragazze, le coetanee, 14.000. Ecco, questo dimostra che esiste già un divario iniziale e si amplia in maniera progressiva nel corso dell'età. In Friuli Venezia Giulia le donne prendono in media 9.400 euro in meno rispetto ai maschi e molto spesso svolgono anche lavori con mansioni che prevedono stipendi più bassi. Si occupano di lavori importanti per la società, ma mal pagati, educazione e assistenza in testa. E anche la cura della famiglia, figli o genitori anziani, ricade sulle donne. Il part-time in regione viene chiesto per il 36% dalle donne, solo per il 7% dagli uomini. E molto spesso l'orario ridotto non è una scelta, anzi. Ci sono delle... sempre più donne laureate con percorsi di carriera importanti e tuttavia si trovano a dovere in molti casi chiedere questo part-time perché non ci sono abbastanza strutture e soprattutto le strutture hanno orari e costi che non sono come dire a misura di donne, di uomini e di famiglie. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Disagi per l'assistenza sanitaria di base. Oggi in tutta la regione gli ambulatori dei medici di medicina generale sono chiusi al pubblico per permettere ai dottori di partecipare a un corso di aggiornamento periodico. A farlo sapere il sindacato STAMI. Chi ha bisogno del medico per urgenze deve quindi contattare la guardia medica. La Questura di Udine ha rafforzato il servizio per il rilascio passaporti. In una nota ha fatto sapere di aver aumentato il numero di agenti preposti al servizio e ampliato gli orari di apertura degli sportelli sia negli uffici della Questura sia nei commissariati di Tolmezzo e di Cividale. Inoltre alla sede della Questura di Udine è stata attivata l'agenda elettronica prioritaria che affiancherà l'agenda elettronica ordinaria per prenotare un appuntamento allo sportello. L'agenda elettronica prioritaria è stata programmata prevedendo 20 posti disponibili per ciascun pomeriggio da lunedì al venerdì e altri 30 posti il sabato mattina per un totale di 130 posti settimanali che andranno ad affiancare e ad aggiungersi a quelli quotidianamente previsti nell'agenda elettronica ordinaria. E ora uno sguardo al tempo con nuvolosità variabile sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 13 gradi a Udine, 13 gradi e mezzo a Gorizia e Pordenone, 14 gradi e mezzo. A Piancavallo e Sampada 7 gradi e mezzo, Forlì di Sopra 9 e mezzo, a Tarvisio 11 gradi e mezzo, a Tolmezzo 12. Sul Monte Lossari e sullo Zoncolan 6 gradi e mezzo e sulla costa a Grado 14 gradi e mezzo e a Lignano 16. Le previsioni di ARPA FVG sui monti dal pomeriggio avremo cielo coperto con possibili deboli piogge sparse che in seguito potrebbero interessare anche le altre zone. Verso sera quindi cielo in genere coperto anche su pianura e costa, sereno poi in nottata. Firmato un protocollo d'intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona e l'Ufficio regionale per l'Europa e l'Italia centrale dell'UNICEF. Ambedue le parti, nelle loro competenze istituzionali, collaboreranno per individuare i bisogni e promuovere iniziative per la tutela e l'inclusione sociale dei minori stranieri non accompagnati. Lo rende noto il Garante del Friuli Venezia Giulia, Paolo Pittaro, che spiega come la sua attività sarà affiancata dall'UNICEF, in particolare nella promozione, sensibilizzazione e formazione per incrementare il sistema della tutela dei volontari e l'affidamento familiare. Iniziano oggi gli incontri di Pordenone Rigenerazione Urbana, tre appuntamenti per ripensare la città e guardare oltre la riqualificazione fisica degli edifici per privilegiare una visione anche sociale ed economica della città che coinvolga la comunità locale. Il primo incontro alle 15.30 è con Roberto Malvezzi, architetto e tecnologo del CNR, che parlerà di città connessa nell'auditorium della Casa dello Studente Zanussi di Pordenone. Gli abbiamo chiesto come si costruisce una città connessa. Partendo innanzitutto dalla ascolto di quelli che sono i valori e i significati e i sensi principali che le persone attribuiscono ai luoghi della propria vita e alle proprie modalità di vivere. Questa è la radice per me di ogni urbanistica che guarda verso a un futuro sostenibile. Noi come esseri viventi, come esseri umani, come comunità, portiamo dentro di noi uno spessore storico importante legato a quello che ci è stato trasmesso, legato alle nostre esperienze e alla costruzione sociale di senso, di significati, di prospettive. Questa è la dimensione immateriale che io chiamo la città cognitiva e che può essere, che è una dimensione eminentemente implicita, nascosta, di cui non si parla mai perché sono i presupposti, diciamo, su cui noi stessi impostiamo le nostre vite, perché non c'è bisogno che ce li raccontiamo e li ribadiamo, ma per poter fare in modo che le città accompagnino l'evoluzione del senso delle persone e dei significati della vita delle persone, occorre in qualche modo partire da un ascolto di questi valori nascosti per poterli spazializzare, per poterli rappresentare, per poterli investigare nelle loro articolazioni, nelle loro dinamiche, nelle loro implicazioni dal punto di vista degli effetti e degli impatti poi su come le città funzionano. E da questo partire verso percorsi di transizione o di trasformazione, di evoluzione delle città che tengano in considerazione questi sottofondi in qualche modo. È già il momento di parlare di Friuli Doc, che festeggerà i suoi 30 anni dal 12 al 15 settembre nelle strade e nelle piazze di Udine. La giunta di Etonia ha approvato il nuovo regolamento con le modalità di partecipazione alla manifestazione per il trentennale di Friuli Doc e l'amministrazione ha deciso di disporre una riduzione dell'80% della tariffa di partecipazione per gli stand rispetto a quella dello scorso anno. Una scelta voluta, come spiega in una nota l'amministrazione, per riportare a Udine tutte quelle realtà che negli ultimi anni si erano allontanate anche a causa delle difficoltà economiche. L'area della manifestazione includerà tutto il centro cittadino e non solo le piazze principali. Dal 1 al 30 aprile sarà possibile presentare online le domande di partecipazione attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Udine. Agnese Moro, la figlia dello statista democristiano rapito e ucciso barbaramente dalle Brigate Rosse nel 78, sarà oggi a Udine per un dibattito pubblico sul tema della giustizia riparativa, in cui si confronterà con l'ex aderente alla lotta armata Grazia Grena. L'incontro, organizzato dall'Università di Udine, avrà inizio alle 14 nell'Aula 3 di Via Tomadini 30. Prima presentazione nazionale di Linea di Fuoco, l'ultimo libro di Arturo Pérez Reverte, tradotto in Italia ieri sera a Pordenone nel convento di San Francesco per il sesto giorno del Festival Dedica in corso fino a sabato, che vede al centro lo scrittore e giornalista spagnolo. Oggi il festival prosegue nel convento sempre di San Francesco di Pordenone alle 20.45 con la lettura scenica del romanzo Occhi Azzurri, che porta sul palco Peppe Servillo, fondatore degli Avion Travel, e il compositore e pianista Natalio Mangalavite. Sono le 12.56, si chiude questa seconda edizione del giornale radio regionale, redatta e condotta in studio da Dario Ronzoni e Andrea Covre. Grazie alla collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli ed Alex Holland e alla collaborazione in redazione di Samantha Gon. Grazie a voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.